Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Quella di oggi è una storia veramente particolare, intanto perché ha un epilogo terribile, perché è una storia veramente cruenta, sfiora lo snuff movie, ma anche perché mai come questa volta, alla fine del racconto, probabilmente né io né voi saremo in grado di trarre una conclusione netta sul tipo di protagonista del quale abbiamo parlato, perché non sappiamo bene se stiamo per parlarvi di un eroe moderno, di un paladino della natura, oppure semplicemente di uno squilibrato dalla psiche fragile. È una storia che vale la pena di essere raccontata e conosciuta, è la storia di Timothy Treadwell, che è l'uomo che visse con gli orsi e che tutti conoscono come Grizzly Man. Mi trovo in questo fantastico verde. Dietro di me ci sono Ed e Rhodey, membri di un giovane branco emergente. Loro sfidano chiunque, me compreso. Il motivo è il territorio. Se dimostro debolezza, se indietreggio, potrei essere ferito o ucciso. Devo stare in guardia se voglio stare in questa terra. Se avvertono che in me c'è debolezza, loro la sfrutteranno, mi tireranno via, mi decapiteranno, mi faranno a pezzi. Sono morto, ma fino a quel punto io insisto, insisto. Questa era la sua voce, Timothy Treadwell, nato nell'aprile 57, mio coetaneo, a Long Island, New York. È una spezzone di audio che è stato tratto da oltre 100 ore di riprese, di immagini, video che lui ha girato in 13 estate consecutive dal 90 al 2003. Settimane, mesi trascorsi in Alaska, nel mezzo di una riserva naturale e nella natura selvaggia, in mezzo agli orsi grizzly, accampato su sentieri frequentati da questi animali, direi quantomeno pericolosi, disarmato con una telecamera quasi sempre accesa per documentare la sua relazione con i grizzly, una relazione che lo portava a avvicinarsi e a toccare bestioni da 300 kg e passa e a parlare loro come se fossero dei bambini, superando quella linea che dovrebbe essere invalicabile tra esseri umani e natura selvaggia. Excuse me. Hey. Hey. It's okay. It's okay. Okay. I didn't mean to get in your way. Wow. It's okay. You're the boss. Nice job. Wow, nice job. Ooh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow. He's a big bear. You keep pushing on when your friends keep turning back. And you keep building towns and laying railroad track. And things get crazy and you have to use that gun. And you wonder if this is the way the West is won. But keep thinking that way and you won't get nowhere. Cause you got a right just to get where you're going to. Gotta keep running, gotta be the best. Gotta walk on the wild way. Timothy Treadwell, il cui vero nome è Dexter, nasce a Long Island, New York, da una tipica famiglia della middle class americana. Il padre lavora per una compagnia telefonica, la madre è casalinga, sono 5 fratelli, è un'adolescenza e un'infanzia normali, da cartolina brillante a scuola, portato per lo sport, per il nuoto in particolare. Ha un'empatia evidente con gli animali ed ecco come lo ricorda la madre Carol in una intervista tratta dal film documentario di Werner Herzog, il regista tra l'altro di Nosferatu e di molti altri film con Klaus Kinski, quindi uno abituato all'horror. Il documentario si intitola Grizzly Man. Era un normalissimo bambino, mai avuto problemi a scuola, è sempre stato un bravo studente. Non prendeva il massimo, ma aveva buoni voti e andava molto d'accordo con gli altri bimbi e con gli animali. Io e lui avevamo un rapporto molto stretto con gli animali che tenevamo in casa. Penso più di chiunque altro. Lui in casa ha uno scoiattolo addomesticato, tanto per cominciare. I suoi pupazzi preferiti sono teddy bears, cioè gli orsacchiotti. Lui è un bel ragazzo, ha un caschetto biondo che attira le ragazze e per tutto il liceo vive una vita normale. Diventa la star della squadra di tuffi Connecticut High School. Insomma, è un ragazzone americano come tanti altri. Poi arriva il momento del college, e al quale arriva proprio grazie alle prestazioni sportive. Andò all'università di Bradley, vincendo una borsa di studio sportiva per i tuffi. Credo che abbia iniziato a bere là, frequentando la gente sbagliata. Poi si ferì alla schiena e finì per perdere la borsa di studio e tornare a casa. Eh sì, in questo periodo si parla molto della vita nei college, e anche allora doveva essere così. Qualcosa cambia, arriva l'alcol, forse la depressione, insomma lui torna a casa dai genitori con una situazione che a questo punto gli sta stretta. Non sopporta più questa normale famiglia americana, si sente tormentato, insoddisfatto, lascia la casa dei genitori, si trasferisce in California, inizia un avvicinamento a una nuova, incredibile vita, a una nuova identità. Il Gabbiano. Timothy Treadwell sta per diventare Grizzly Man e per andare incontro a un tragico e terribile epilogo che però spinse Werner Herzog a realizzare addirittura un documentario sulla sua vita, montando proprio le immagini che lui stesso, Timothy, aveva girato nel corso di 13 estati a tu per tu con gli orsi. Per 13 anni, Timothy Treadwell ha vissuto insieme agli orsi grizzly nella selvaggia Alaska. Durante quel periodo ha filmato più di 100 ore di video, fino a quando, nel 2003, è stato ucciso da uno degli orsi che lui aveva giurato di proteggere. And that's my story here. For me, Timothy Treadwell. Quando ha 20 anni arriva in California, lo abbiamo già detto, e inizia una serie di piccoli grandi fallimenti, perché ha velleità artistiche, prova a fare l'attore, non ce la fa, ed è un fallimento che lo fa crollare anche emotivamente. Sentiamo cosa dice Val, che è il padre. Aveva trovato un lavoro, giusto per fare qualche soldo, lavorando al negozio della Queen Mary. Assunse un agente, cambiando poi il suo nome in Treadwell, suonava più teatrale, ed era un cognome vero. So che riuscì ad entrare in Love Connection con Chuck Woolery e poi penso che finì a lavorare in un altro show. Vennero fatte molte promesse che non si realizzarono mai. Fece anche dei provini con gli attori per avere la parte del barista nella sitcom Cin Cin e presumibilmente arrivò secondo dopo Woody Harrelson. Quanto vicino al vincitore, non saprei, ma lo distrusse sul serio il fatto che non avesse vinto quel ruolo. E così, come spesso accade, arriva l'abuso di alcol e di droga per reagire a questa delusione. In una delle tante registrazioni tra gli orsi, lo stesso Timothy parla del suo problema, non parla della droga, ma solo dell'alcol. Ero nei guai, bevevo molto, lo sapevate, non lo potete nemmeno immaginare, ma bevevo, fino al punto al quale penso che sarei potuto morire, o al contrario liberarmi totalmente. Eppure niente poteva farmi smettere, niente. Sono stato ai programmi di riabilitazione e ho provato a smettere da me. Facevo tutto ciò che potessi per provare a non bere e poi invece facevo di tutto per bere e mi stavo uccidendo. finché non ho scoperto questa terra degli orsi e mi sono accorto che erano in così grande pericolo che avevano bisogno di un custode, avevano bisogno di qualcuno che li proteggesse, ma non un ubriacone, non un mal ridotto. But not a drunk person, not a person messed up. Grifting a hot horse tips on who's running the best, and I'm blinded by the neon. Don't try and change my tune. I thought I heard a saxophone, I'm drunk on the moon. The moon's a silver slipper, it's pouring champagne stars. Così lui comincia a scappare, si inventa una seconda identità, racconta di essere un orfano australiano, anche se ha un accento che lo smaschera immediatamente, è in fuga da se stesso, è una fuga che si conclude con una overdose. Sentiamo un amico di quel periodo. At some point in Timmy's life. Ad un certo punto della sua vita Timmy ebbe un overdose quasi fatale. Non so come fece a sopravvivere, era un ragazzo forte. Immagino però che fu una specie di epifania per lui. Dopo di essa si mise in cerca di una diversa immagine pubblica. Immagino che fu allora che si inventò una provenienza falsa e il suo delizioso accento. Non l'avevo mai messo in dubbio. Però quell'overdose gli dà la sveglia, cambia vita, inizia a viaggiare, va in Alaska. Nel libro che scriverà sulla sua esperienza tra gli orsi, lui dice di aver sentito come una chiamata del destino al suo primo incontro con un grizzly, una specie di illuminazione sulla missione da compiere nella vita. Così promisi agli orsi che se li avessi protetti, loro mi avrebbero aiutato a essere una persona migliore e sono diventati ispirazione per me. E vivere con le volpi anche mi fece smettere con l'alcol. È stato un miracolo assoluto. E il miracolo sono stati gli animali. Il miracolo sono stati gli animali. È il 1990, è la prima estate in cui lui decide di accamparsi nel santuario dei grizzly, una zona della penisola dell'Alaska dove domina la natura, un parco naturale dove in realtà gli orsi non hanno bisogno di essere difesi da nessuno perché c'è già la difesa della legge. Ma Timothy si autoproclama loro paladino, crea una fondazione Grizzly People, ma soprattutto si trasferisce per 4 mesi all'anno senza armi e senza radio in un luogo dove comandano loro, comandano gli orsi, che sono quelli più grandi e aggressivi della terra. E inizia così la costruzione del suo mito, perché le associazioni ambientaliste vedono il suo impegno, il suo lavoro, e con la loro proverbiale ingenuità lo riconoscono come eroe, difensore della natura selvaggia. Questa è un'amica di Tim, un'ambientalista, Marnie Gade, che oggi è al vertice della fondazione Grizzly People. Lui voleva diventare come gli orsi. Penso che avesse un lato spirituale, ma non nel senso religioso del termine. Forse desiderava trasformarsi in un animale selvatico, come scrive in questa ultima lettera. Dice: devo trasformarmi in un animale selvatico per vivere questa vita. Credo che ci sia in queste parole qualcosa di spirituale. Il legame con la natura è talmente forte che non sei più solo un essere umano, e questa è un'esperienza spirituale. And that is a religious experience. E così il pubblico americano comincia a conoscere Tim e comincia a spaccarsi in due l'opinione pubblica, perché da un lato viene visto come difensore degli orsi, amante della natura, eccetera, ma altri cominciano a vedere in lui anche un pazzo incosciente, perché magari alla ricerca della gloria e del denaro. In effetti i soldi lui non li cercherà mai, però la fama e la notorietà obiettivamente sì. Il nostro protagonista di oggi è un uomo sul quale si è parlato, si è detto tutto e il contrario di tutto, Timothy Treadwell. è l'uomo che visse per 13 estati in mezzo agli orsi grizzly dell'Alaska. Da un lato un paladino della natura, un amante della natura, degli animali che cercava una simbiosi impossibile con degli animali ferocissimi, e dall'altro un pazzo, un eroe, forse entrambe le cose. Parte da una vita borghese a New York, problemi di alcol, di droga, una mancata carriera di attore, e poi questo finale in braccio, letteralmente e tragicamente, agli orsi ferocissimi dell'Alaska, per proteggerli, per farli conoscere, forse per diventare come loro. La maggior parte delle volte sono un gentile combattente. Sono cortese, sono come un fiore, come una mosca sul muro, osservando con nonchalance, non invasivo in alcun modo. Talvolta invece sono sfidato. In quei casi il cavalier gentile deve essere un samurai, così intrepido, forte, talmente forte che vincerà, che perfino gli orsi crederanno che sei più forte di loro. In un certo senso tu devi essere più forte se vuoi sopravvivere in questa terra con gli orsi. Nessuno ha mai saputo, mai, che ci sono momenti in cui mi trovo sul precipizio della morte e che questi orsi possono mordere ed uccidere. E se sono debole, io soccomberò. Li amo con tutto il mio cuore e li proteggerò. Morirò per loro. Ma il concetto del pericolo, della morte, che torna nei suoi discorsi pronunciati davanti a una telecamera fissa montata su un cavalletto. Lui racconta di essere solo, non sempre così, in alcune occasioni con lui c'è la fidanzata Amy Huguenard. La telecamera non la riprende quasi mai, apparirà per caso solo due volte con il volto nascosto quasi per non apparire. Noi non sappiamo in quali momenti lei sia con lui e in quali no, a parte gli ultimi drammatici giorni, quelli di cui parleremo più avanti. E intanto Tim diventa famoso, finisce in televisione, negli show più importanti, in tutte le interviste la domanda cruciale è sempre quella, riguarda la possibilità, è sempre meno remota, di essere ucciso. Sarò vicino fisicamente agli orsi 24 ore su 24, 4 mesi alla volta. Questa cosa è folle. Questi sono tra gli animali più pericolosi sulla faccia della Terra e tu vuoi vivere in pericolo con loro 24 ore su 24? Penso che non siano stati compresi. Come posso credere che tu voglia farti uccidere da un orso? Che tu non voglia dire: ok, ho fatto un errore di valutazione, vorrei portarmi una pistola. Non ucciderei mai un orso per difendere me stesso. Non ho intenzione di andare nella sua terra e ucciderlo. Viene invitato anche al Late Show di David Letterman, quindi l'imprimatur massimo per una star mondiale. Passano tutti, attori, presidenti. È veramente il coronamento di una carriera. E Letterman non può farsi mancare la sua proverbiale ironia e arriva con una domanda precisa che con il senno di poi suona un po' come un presagio. Dici che un giorno leggeremo sui giornali che sei stato mangiato da uno di questi orsi? Estate dopo estate, anno dopo anno, lui si accampa tra gli orsi, li riprende, arriva a toccarli, vuole creare un'empatia e per un certo momento si convince di essere in grado di gestire questa situazione. C'è una famosa ripresa in cui lui parla con un gigantesco orso alle spalle, insomma, poi appaiono una volpe con dei cuccioli. Sembra che lui sia davvero un pezzo della scena, della natura, assolutamente a suo agio e capace di gestire quel contesto. E così Tim sembra avere trovato l'identità che cercava, forse ha solo nascosto i suoi problemi e la sua fragilità. In molte scene dei suoi video appare depresso, piange per episodi tipici della natura selvaggia, cioè muore una volpe, lui piange, un orso che uccide e mangia i cuccioli di una femmina per farla tornare fertile e lui piange, cioè sembra non capire davvero che la natura funziona così, la idealizza. E il regista del documentario Grizzly Man, il grande Werner Herzog, sintetizza così questa infatuazione di Tim per gli orsi. Ciò che trovo inquietante è il fatto che in tutti i musi degli orsi che Tridwell ha filmato non riesco a scorgere alcuna vicinanza, alcuna comprensione, alcuna pietà. Ci vedo solo la travolgente indifferenza della natura. Per me non esiste alcun mondo segreto degli orsi e questo sguardo vuoto comunica solo un annoiato interesse per il cibo. Eppure, per Timothy Tridwell, quest'orso era un amico, un salvatore. Despair was a friend, a savior. Eh sì, Herzog ha capito quello che Tim non era mai riuscito a capire nella frase la travolgente indifferenza della natura. Tim vedeva delle cose che apparivano solo a lui. E intanto, dopo 13 estati, lui è agitato, è diventato paranoico, afferma di doversi nascondere, insulta gli addetti al controllo del parco, parla dei turisti come dei nemici, sembra non voler andare più via. Più resta in questa zona e maggiore il rischio per lui e per Amy, la sua compagna sciagurata, che in quell'ultima spedizione è proprio lì al suo fianco. Gli orsi stanno per andare in letargo, nuovi orsi si appropriano del territorio, cercano cibo in maniera frenetica prima del lungo sonno invernale. Sono orsi non abituati a quest'uomo che gli si avvicina e parla loro come se fossero dei bambini. Siamo alla fine del settembre 2003. Timothy e Amy salgono sull'idrovolante di un amico, Will Fulton, per farsi trasportare a una settantina di chilometri di distanza per tornare nella civiltà. Lui ha un battibecco con un assistente di volo per il biglietto, si arrabbia, urla che odia il mondo civilizzato e decide di tornare per qualche giorno tra gli orsi, gli unici che possono capirlo. Lei non vuole, litigano, ma alla fine purtroppo Amy decide di rimanere con lui. È una scelta che le costerà la vita. Come in una escalation di pericolo, lui decide di accamparsi nel mezzo del cosiddetto labirinto, che è una collina con una vegetazione intricata e rigogliosa. È un posto più pericoloso del solito, perché gli orsi si stanno aggirando per i sentieri del labirinto e ci si può trovare faccia a faccia con loro all'improvviso. Lasciatemi dire una cosa, signore e signori. Non c'è nessun altro posto al mondo più pericoloso, più eccitante del labirinto degli orsi. Venite qua a campeggiare, provate a venire qui, provate a fare quello che faccio io. Morirete qui! Cazzo, morirete qui! Aia, e qui le cose iniziano a mettersi veramente male. Sono le prime ore del mattino del 6 ottobre 2003. Il sole non è ancora sorto, il labirinto è avvolto nella nebbia. Probabilmente i due, Timothy e Amy, vengono svegliati da rumori che sono inequivocabili. C'è un orso vicino a loro. Lui esce dalla tenda, accende la telecamera, ma ha ancora il tappo sulla lente, così rimane registrato, forse per fortuna, solo l'audio. Un audio terribile, perché l'orso è un gigantesco maschio che Timothy aveva ripreso in video qualche ora prima, lo attacca, lo afferra alla testa con le fauci. Lui grida a lei di scappare, ma lei non lo fa, brandisce un oggetto, forse una padella, colpisce l'orso sulla testa, ma l'orso desiste solo un attimo. Pochi istanti dopo torna, afferra Timothy e lo trascina nel folto della vegetazione. Le urla di Amy diventano altissime, tanto da scatenare ancora una volta l'istinto dell'animale, che torna indietro di nuovo e uccide anche lei. Quella stessa mattina il pilota e amico Will torna a prenderli. Non li vede sulla spiaggia dove pensava di trovarli. Si inoltra lungo il versante della collina e si trova di fronte l'orso. Scappa, sale sull'aereo, prende il volo e vede dall'alto l'animale chino sui resti di Timothy e Amy. Torna ore dopo con i soccorsi. Qui in cima alla collina è dove abbiamo trovato i resti di Tim, ossia la testa, qualche pezzo attaccato di spina dorsale, una mano e un braccio, con l'orologio ancora al polso. Questo è tutto ciò che è rimasto dell'orso che l'ha ucciso, qualche costola. Gli hanno sparato, poi gli altri orsi l'hanno trascinato qui e se lo sono mangiato. La cosa peggiore è che Tim non avrebbe mai voluto vedere un orso ucciso, sebbene sia morto per mano loro. Lui non avrebbe voluto essere ritrovato, né avrebbe voluto che scoprissero i suoi resti o il suo campo, e sarebbe stato contento così. Lui viveva sicuramente al limite, ma era più intelligente di quanto gli altri pensassero. Era riuscito a resistere a lungo qui, e l'orso che l'ha ucciso era un infame che a lui nemmeno piaceva. Aveva provato a farsi un amico, ma niente. He wanted to be friends with, but never happened. Was a cowboy I knew in South Texas. His face was burnt deep by the sun. Part history, part sage, part Mexican. He was there when Pancho Villa was young. Timothy Treadwell, un pazzo, un eroe, non lo so, ha vissuto i suoi ultimi 13 anni di vita inseguendo e realizzando il suo sogno, vivere in mezzo agli orsi nella natura selvaggia. E naturalmente, siccome i sogni a volte si interrompono, anzi quasi sempre, è andato incontro a un destino terribile, direi scritto dall'inizio e forse in qualche modo atteso e cercato. E se Dio c'è, non so se ci sia, ma se c'è Dio, penso che lui sarebbe molto, molto contento di me. Se potesse vedermi qua, quanto li amo, quanto li adoro, quanto rispetto ho per loro, quanto io sia uno di loro, e quanto materiale di studio mi offrono. Le fotografie, i video che diffondo, senza volere un centesimo, per tutta la gente del mondo. È un bel lavoro, mi sento bene a farlo e voglio continuare a farlo. Spero di continuare a farlo, lo spero davvero. Ma se così non sarà, sappiatelo. Morirò per questi animali, io morirò per loro, morirò per questi animali. Grazie per avermelo lasciato fare. Grazie per questi animali, per darmi una vita. Io non avevo una vita, adesso ne ho una. Beh, lo sapete, non tutte le storie che raccontiamo sono semplici, sono indolori. In questo caso si tratta di una storia veramente atroce da raccontare, difficile da interpretare. In ognuna c'è un colpo d'ala, anche se in questo caso il desiderio di volare in alto è una ossessione che sconfina nella follia. Costi quel che costi, come per Timothy Treadwell, Grizzly Man, l'uomo degli orsi, l'uomo che amava gli orsi e che dagli orsi è stato sbranato. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite su cui puntare, fatelo, scrivete, visitate i nostri social o i miei social, insomma, se volete, mi trovate, ci trovate. Ciao, a lunedì. Well, it's all right. Tomorrow will bring maybe a diamond.